Dico subito che appunto di aver sfrondato sensibilmente il testo, spero appunto soltanto di averlo macellato, diciamo, secondo le sue giuste articolazioni, come diceva Platone del bravo dialettico. Allora, una situazione di grave pericolo si era determinata per la fede con il destarsi del senso religioso in ambito del senso storico, scusate, in ambito religioso. Una situazione, peraltro, ben presente a Lessing, tanto da farlo esclamare: quando si cesserà di voler appendere a un filo di ragno non meno che l'eternità intera? No, ferite così profonde la dogmatica scolastica non ha mai inferto alla religione come oggi quotidianamente inferisce l'esegesi storica. In effetti, nel panorama composito dell'Aufklärung tedesca, caratterizzato da un groviglio di deismi, dalle più varie accentuazioni di ortodossie bibliche, dalle sfumature più composite di teologie naturali e di frange ateistiche, di realismi soprannaturalistici e di soprannaturalismi irrazionalistici, che si confrontavano sul problema del rapporto tra fede e sapere, ragione e rivelazione, Lessing occupava una posizione di spicco e del tutto originale. Salto. Pur dandogli voce e fiato, Lessing non fu mai fino in fondo dalla parte degli adoratori razionali di Dio. Egli comprendeva che il troppo amore per la verità storica minacciava di precludere al cristiano ogni incontro con la verità eterna che non avesse per riferimento la lingua e il libro della natura. Il contravvenire all'esortazione pascaliana di riconoscere la verità della religione nella sua stessa oscurità non doveva comportare per lui la conseguenza astratta, proprio del deismo razionalista, che, cito, la rivelazione, cito dai frammenti di Reimarus, la rivelazione non deve essere necessaria né l'uomo deve essere fatto per la rivelazione. In una situazione oggettiva caratterizzata dal fatto che, scrive Lessing, tuttora esiste la religione che con la predica della resurrezione di Cristo ha prevalso sulla religione pagana e giudaica, quanto vale per il dotto teologo non deve valere allo stesso modo per il cristiano, il quale, cito, può essere molto pio, ma non è di certo molto illuminato. Atteggiandosi secondo un diverso bisogno alle verità rivelate, il cristiano può dire infine: ora basta con questi frammenti. Infatti, cito, che importano al cristiano le ipotesi, le definizioni e le prove del teologo? Per lui, infine, c'è pur sempre il cristianesimo che egli sente come vero, in cui si sente così felice. Quando il paralitico prova le benefiche scariche delle scintille elettriche, che gli importa se ha ragione Nollet o Franklin, oppure nessuno dei due? In breve, la lettera non lo spirito e la Bibbia non è la religione. Di conseguenza, le obiezioni alla lettera e alla Bibbia non sono anche obiezioni contro la lettera e contro la Bibbia, non sono anche obiezioni contro lo spirito e la religione. Infatti, la Bibbia contiene manifestamente più di quanto riguarda la religione, ed è una mera ipotesi che in questo di più debba essere ugualmente infallibile. La religione esisteva anche prima che esistesse una Bibbia, il cristianesimo esisteva anche prima che gli apostoli avessero scritto. Fine citazione. In questo contesto trovava spazio l'obiezione rivolta da Lessing contro tutti coloro che da sponde opposte, Reimarus come i teologi ortodossi alla Schumann, saltavano indebitamente il largo fossato che tiene separate le casuali verità storiche dalle necessarie verità razionali. Mai la verità rivelata avrebbe potuto essere invalidata e tantomeno giustificata storicamente. E non solo perché ciò avrebbe dato luogo a una metabasi in un altro genere, a un salto, da una classe di verità a un'altra che contravveniva a una precisa regola logica. Il motivo di questo impedimento era anche un altro, dovuto al fatto che il nucleo della rivelazione non solo non veniva intaccato dalla mancanza di riscontro con le verità storiche, che in quanto sbiadite a verità storiografiche avevano ora a proprio criterio non più l'evidenza delle profezie e dei miracoli, ma l'attendibilità e veridicità delle loro testimonianze. Ma possedeva altresì una sua verità interna, non più di carattere meramente storico-positivo, ma divina ed eterna, manifestata dalla sua persistente capacità di obbligare il credente alla fede negli insegnamenti di Cristo. Lessing poteva congedare così l'argomento dello spirito e della lettera con poche ma efficaci parole. Che cosa mi importa che la leggenda sia falsa o vera? I frutti sono eccellenti, ma lo congedava sulla base di un'inversione che tendeva a ristabilire il giusto rapporto tra la verità della religione e le sue prove storiche, tra il suo edificio dottrinale e l'impalcatura che lo aveva primariamente sorretto. Sicché, scriveva Lessing, la religione non è vera perché gli evangelisti l'hanno insegnata, ma essi l'hanno insegnata perché è vera. I testi tramandati devono essere spiegati sulla base della sua verità interna, e tutti i testi tramandati non servono a darle una verità interna se essa non ne possiede alcuna. Non c'è dubbio che Lessing manifestasse in tal modo una separazione netta tra la sua posizione e quella astrattamente radicale di Reimarus e degli altri adoratori razionali di Dio. Avanzando una soluzione di equilibrio, da un canto cercava di non menomare alla ragione la facoltà di decidere, cito, se possa esservi una rivelazione e debba esservene una, e quale delle tante che pretendono di avervi diritto lo sia in modo verosimile. Dall'altro, non riteneva possibile eliminare semplicemente le religioni positive e rivelate in nome di una religione universale della pura ragione. Perché, secondo le sue parole, la religione rivelata non presuppone minimamente una religione della ragione, ma la racchiude in sé. In quest'ottica, Lessing superava certo la scissione tra ragione e rivelazione, in quanto non era un sistema di verità razionale a dover essere rinvenuto dentro l'apparato dogmatico di determinate religioni rivelate, come pure aveva ritenuto al principio nello scritto sul cristianesimo della ragione. Ma erano queste ultime ad apparire come molteplici modi di fenomenizzarsi della ragione e insieme come momenti diversi del compiersi della rivelazione. Soprattutto assurgeva una connotazione più elevata della stessa verità storica, che da relativa diventava assoluta, in quanto depositaria del processo educativo attuato nella storia dalla provvidenza divina. Fino a far mutare d'abito alla storia stessa, che smetteva così i panni di testimone incerto e contraddittorio di profezie e miracoli, per vestire quelli di custode di una divina alleanza tra rivelazione e ragione, quell'alleanza che per Lessing si era manifestata ai suoi albori nelle stesse vicende del popolo di Israele, il quale, cito, cominciò nella cattività sotto i saggi persiani a commisurare il suo Dio con l'essere di tutti gli esseri, quale lo riconosceva e venerava una ragione più esperta. La rivelazione aveva guidato la sua ragione, ed ora, ad un tratto, la ragione rischiarò la sua rivelazione. Fu questo il primo servigio che rivelazione e ragione si resero a vicenda, e per l'autore di entrambe una tale reciproca influenza è così poco disdicevole che senza di essa una delle due sarebbe disdicevole. Sarebbe superflua, scusi. L'ultima parola di Lessing, per il tema che qui ci interessa da vicino, non era però la metempsicosi, ovvero l'ammissione della possibilità di un ritorno individuale nella storia che rendeva partecipi gli uomini di qualsiasi tempo e credo religioso del medesimo piano educativo. Piuttosto, era una sacralità che proveniva alla storia per il fatto che ogni religione rivelata, pur di verità storica, dice Lessing, ammettiamolo così, incerta, comunque guidava il genere umano a più precisi e migliori concetti sull'essere divino, sulla nostra natura e sul nostro rapporto con Dio, concetti ai quali la ragione umana non sarebbe mai riuscita ad aggiungere per se stessa. Questa terza posizione di Lessing, che intendendo la ragione come progressivo rischiararsi del mistero rivelato e la rivelazione come maestra della ragione, dava spazio a una nuova visione del mondo storico in cui l'intero passato recuperava significato. Una posizione che però non poteva certo combaciare con la prospettiva kantiana di una religione nei limiti della semplice ragione. A fare la differenza fra loro, ben inteso vi sono dei punti di contatto, tuttavia a fare la differenza tra loro era il percorso prescelto da Kant per la determinazione del concetto stesso di religione. Questa infatti indirizzava necessariamente in una determinata direzione che faceva dipendere le sorti della religione dalla fondazione della morale. La morale kantiana, e non più solo quella cristiana, introducendo nei loro confronti una distinzione di carattere meramente formale. Data per questa via la definizione tout court della religione come, cito, l'insieme di certe dottrine in quanto rivelazioni divine, poiché questo si chiama teologia, quindi non come l'insieme di certe dottrine, ma come l'insieme di tutti i nostri doveri in generale in quanto comandamenti divini, e soggettivamente nella massima di adempierli in quanto tali, ne discendevano per la religione alcune notevoli conseguenze e pertanto non solo che non le veniva assegnato da Kant un proprio dominio perché già rientrava in quello della ragion pratica e non tanto per la materia che condivideva con la morale quanto per la forma che pur differenziandola da quest'ultima faceva capo alla medesima legislazione della ragione che doveva venire affidato alla descrizione empirica e dunque a scienze di un diverso statuto metodologico, quale ad esempio l'antropologia, la trattazione degli elementi mitico-dogmatici o cultuali delle religioni, che veniva altresì ammessa l'esistenza di diverse specie di fede e però di una sola vera religione, salvo poi ritenere il solo cristianesimo degno di contenere gli elementi di una pura fede religiosa e non solo ecclesiastica. Oltre a ciò, risultava mutato insieme alla religione il rapporto tra il carattere rivelato e quello tra il suo carattere rivelato e quello razionale. Difatti, mentre per l'essere della religione rivelata poteva racchiudere in sé una religione della ragione, senza doverla per questo minimamente presupporre, Kant, che pure manteneva l'immagine dei due cerchi concentrici, cioè l'attribuzione alla religione rivelata della sfera più vasta della fede, poneva nella sfera più ristretta della religione razionale pura la condizione e il fondamento della prima. Nel quadro della ricercata coalizione tra positivo e razionale, ovvero del tentativo di sostenere, cito, di sostenere che fra la ragione e la scrittura esiste non solo compatibilità, ma anche unione, era comunque la ragione a parlare per Kant come se fosse sufficiente per se stessa, come se la dottrina rivelata quindi fosse superflua. Continua la citazione dal conflitto di facoltà. Superflua non per la sua capacità teoretica, ben inteso che in tale campo era già stata riconosciuta dalla filosofia critica di poco valore, ma, continua Kant, per ciò che prescrive di fare, in quanto solo da esso provengono l'universalità, l'unità e la necessità delle dottrine della fede, che consiste nella parte morale pratica, in ciò che noi dobbiamo fare. Ciò che invece noi abbiamo motivo di credere sulla base di argomenti storici, poiché a tale proposito non vale alcun dovere, cioè la rivelazione in quanto dottrina di fede, è in sé contingente, è considerata inessenziale, anche se non per questo inutile e superflua, poiché essa serve a supplire alla carenza teoretica della pura fede razionale. Era dunque estremamente radicale la risposta che Kant dava alla condizione dell'uomo di non poter attingere qui, nel campo della religione, all'epifanicità dell'oggetto, alla condizione in cui, secondo Lessing, si trovava propriamente chi viveva nel secolo XVIII nel quale non si verificavano più miracoli. Se il suo presupposto era il processo di graduale liberazione da ogni principio empirico di determinazione, da tutti gli statuti fondati sulla storia, come dice Kant in una lettera a Mendelssohn, che si realizzava di pari passo con lo sviluppo, per opera dell'uomo, delle disposizioni fisiche e morali che si trovano in noi, il risultato non poteva essere che l'affermarsi di una religione morale che ammetteva sì la necessità dei cosiddetti argomenti catantropon, ma solo all'inizio, per introdurre dapprima e per diffondere poi presso una gran massa una religione così pura da abrogare tutti i precetti mondani. Tale, pertanto, da contrastare e respingere con veemenza ogni uso improprio, cataletene, di quegli argomenti propri di ogni fede storica. Certo, Kant era persino disposto a concedere a Jacobi, a semplice titolo d'ipotesi, che, cito, se il Vangelo non avesse preventivamente insegnato le universali leggi morali in tutta la loro purezza, la ragione non le avrebbe finora concepite in tale perfezione. Tuttavia, ciò restava per lui un problema riguardante una questione meramente accessoria, quella di un insegnamento ausiliario legato al passato. Essenziale era invece il fatto che, visto che, cito, esse infine ci sono, ciascuno si poteva persuadere mediante la sola ragione della purezza e della validità di quelle leggi. Kant dunque non si limitava a ribadire con Lessing il divieto di saltare maldestramente dal campo delle verità storiche a quello delle verità razionali, ma si spingeva più lontano nel sostenere che, cito, se una religione morale, che non consiste in dogmi, in osservanze, ma in una disposizione del cuore a sottostare a tutti i doveri umani come i comandamenti divini, deve essere fondata, bisogna che tutti i miracoli che la storia accompagna alla sua introduzione rendano infine superflua la stessa fede nei miracoli. Infatti equivale a un grado di incredulità degno di castigo rifiutare alle prescrizioni del dovere un'autorità sufficiente se non sono accreditate da miracoli. Ciò posto, neanche poteva definirsi però astrattamente rigida la sua posizione, giacché alternava intransigenza a moderazione. D'altronde, rispetto ai cosiddetti argomenti storici, Kant osservava che, stando così le cose, egli dice, ora che la religione aveva riconosciuto la sua verità nei principi morali e per questo non poteva più essere sovvertita, non c'era vantaggio a contestare questi racconti e le interpretazioni che di essi potevano darsi in sede di considerazione storica. Dal punto di vista della fede religiosa pura, potevano risultare persino irrilevanti e per questo essere lasciati tra gli adiafora, in quanto nei loro confronti non valeva alcuna obbligazione. Posta come essenziale la questione della Geltung, la religione non trovava più un fondamento razionale in ciò che si poteva anche considerare teoreticamente vero, per esempio ciò che si fonda storicamente sulla testimonianza di altri, come dice il conflitto. Il numero di ogni fede storica era da considerare allo stesso tempo così normativo e conoscitivo, in quanto non disponeva dal punto di vista strettamente etico di quei caratteri di universalità, unità e necessità, ai quali peraltro non poteva neppure accedere alcuna rivelazione che si desse, dice Kant, in quanto esperienza. Essa presupponeva, di fatto per Kant, la coscienza della propria accidentalità. Tant'è che il teologo biblico avrebbe anche potuto dimostrare che un Dio esiste sulla base in base alle testimonianze bibliche, senza mai avere però la possibilità, nella legittimità, di sostenere che Dio stesso abbia parlato attraverso la Bibbia. Anche ammettendo la realtà di una rivelazione divina, restava per questo immutato il limite della legislazione statutaria che, in quanto retta su una rivelazione, dice Kant, non può essere che casuale, quindi priva della garanzia che sia giunta o giunga a ogni uomo, perciò non può essere ritenuta obbligatoria per ogni uomo. In tal senso, parafrasando il detto di Lessing, si potrebbe dire che anche secondo Kant ogni fede storica era allo stesso tempo vera e falsa, anzitutto falsa, perché in quanto fondata semplicemente su fatti e non su leggi, non poteva estendere il suo influsso al di là dei limiti di tempo e di luogo, cui possono giungere le notizie su cui poggia la sua credibilità. Sicché era la stessa empiricità degli statuti della fede ecclesiastica a privarla di fatto della possibilità di essere comunicata a tutti per convinzione, facendo sì che essa generasse da sé ogni sorta di settarismo in materia di fede, allorquando pretendeva di sostituire, dice Kant, l'empirismo al razionalismo, assumendo così dottrine contingenti e rivelate come dottrine razionali della fede. Rientrava nel suo stesso destino così il fatto di essere immancabilmente la fede di qualcuno e di non lasciarsi comunicare, nonché partecipare a tutti, essendo anzi, cito, una ricca fonte di sette infinitamente numerose in materia di fede, che favoriva il moltiplicarsi di proposizioni e interpretazioni contrastanti tra loro. Tale quindi da richiedere e persino autorizzare l'intervento purificatore della fede religiosa, la quale, al contrario, non solo poteva far valere una pretesa legittima di validità universale, catholicismus rationalis, così lo chiama Kant, e dunque la capacità di fondare una Chiesa universale, ma possedeva altresì una norma in base alla quale poter valutare e spiegare le espressioni di una rivelazione divina attraverso parole. In altri termini, il principio ultimo, così lo chiama Kant, di ogni interpretazione della scrittura, che sapesse coglierla infine come un tutto, nella veste di una dottrina sistematica della fede, pur nel rispetto delle specifiche competenze della scienza scritturale attenta alla trattazione filologica dei singoli scritti. Di conseguenza, per Kant, non era più la rivelazione ad essere in grado di educare la ragione, ma la ragione stessa ad avere i mezzi per riconoscere l'autentica rivelazione. Difatti, solo la ragione pratica dava adeguata risposta alla domanda: come posso riconoscere che Dio stesso e non altri si è rivelato? Solo dalla legislazione morale, che costituiva la condizione indispensabile di ogni vera religione in generale, proveniva il medio della vera rivelazione. La rivelazione interna, che è precisamente, dice Kant, la rivelazione di Dio attraverso la nostra propria ragione, la rivelazione che in quanto tale deve precedere tutte le altre. Non di meno, tutto questo non esauriva completamente il compito della filosofia kantiana della religione, vera da riconoscere ancora la parziale verità della fede rivelata, la quale soddisfaceva il naturale bisogno, dovuto alla limitatezza della ragione umana, di dare una rappresentazione sensibile alle idee religiose attraverso l'esempio di un maestro, ispirato divinamente, ma interamente e veramente umano, nei cui insegnamenti e nelle cui azioni si palesa esteriormente, dice Kant, l'ideale del bene. Benché riponesse nel concetto di religione la condizione del progressivo estinguersi della fede storica e nel principio della religione razionale pura il fondamento del passaggio a un ordine di cose nuovo, in cui, secondo le parole pauline citate da Kant, Dio sia tutto in tutti, e benché ripetesse con l'Evangelista Matteo che il regno di Dio è giunto in mezzo a noi, Kant sapeva riconoscere la persistente necessità della religione positiva, senza la quale non v'era possibilità per gli uomini, animati da intenzioni morali, di formare una chiesa visibile, una comunità etica. Ma al tempo stesso egli ne dialettizzava, per così dire, il superamento all'interno di una storia universale riguardante l'intero genere umano, poiché, cito, nel principio del trapasso graduale dalla fede ecclesiastica alla religione universale razionale, egli scorgeva racchiuso in maniera invisibile, come in un germe, dice Kant, che si sviluppa e successivamente si moltiplica mediante il seme, il tutto che un giorno dovrà illuminare e dominare il mondo. A tal fine doveva accadere che la storia assumesse consapevolmente, responsabilmente, il profilo del racconto della lotta costante tra la fede cultuale e la fede religiosa morale, essendo l'uomo costantemente propenso a porre più in alto la prima in quanto fede storica, mentre la seconda non ha mai rinunciato al diritto di preminenza che le compete come l'unica capace di rendere migliori le anime. Una lotta per il trionfo di uno stato etico, dice Kant, retto da Dio, che per questo rimaneva ancora e sempre, secondo le parole di Kant, un compito che per noi è anche un dovere, interamente affidato a noi.